L'intelligenza artificiale è, beh, è ovunque ormai, quasi non ci facciamo più caso. È vero. Però come ci si orienta? Soprattutto i più giovani, eh? Pensa che un buon 55% della Gen Z dice di imparare sull'IA dai social. Wow, tantissimi. E quasi la metà, il 49%, ammette di far fatica a capire se può fidarsi o no di queste tecnologie. Ricordiamocelo sempre, non è mica magia. Assolutamente no. È statistica, sono dati elaborati. Inferenze. Esatto. Oggi, infatti, diamo un'occhiata a una bozza interessante, uscita a maggio 2025. È un quadro di riferimento per l'alfabetizzazione sull'IA. Sì, quello della Commissione Europea e dell'OCSE. Proprio lui, con il supporto anche di Code.org e vari esperti internazionali. Si chiama Empowering Learners for the Age of AI. Un titolo ambizioso. Eh già. E noi cerchiamo di capire cosa lo rende particolare, magari, e come si collega a quello che c'era prima, no? Certo. L'idea di fondo del documento è definire questa alfabetizzazione sull'IA. La vedono come un mix di conoscenze tecniche, certo, ma anche competenze che durano nel tempo e attitudini giuste. Giusto, per interagire, creare, gestire, progettare l'IA, ma anche per valutarla criticamente. Appunto. Benefici, rischi, implicazioni etiche, tutto il pacchetto. E infatti definiscono l'IA in modo molto allineato all'OCSE e all'EU AI Act, sai? Ah sì, come? Beh, come un sistema basato su macchina che opera con una certa autonomia e che usa gli input per, diciamo, inferire e poi generare output. Tipo previsioni, contenuti. Esatto, o decisioni. Output che poi influenzano l'ambiente, fisico o virtuale che sia. Capisco. Quindi l'ambizione forte è creare una base comune? Un linguaggio condiviso per insegnare l'IA nelle scuole primarie e secondarie. Proprio così. Sembra voler riempire un vuoto, dare delle risposte su come integrare l'IA nelle varie materie. E si collega anche ad altre cose importanti, mi pare di capire. PISA 2029, per esempio. Sì, quello sull'alfabetizzazione mediatica e IA. E poi il piano d'azione per l'istruzione digitale dell'UE. E persino l'AI Act, che mi dicevi chiede formazione sull'IA per chi usa certi sistemi. Esatto, l'articolo 4. C'è un filo conduttore. Ma la domanda è, nasce così, dal nulla, o si appoggia su qualcosa di già esistente? No, affatto. Affonda decisamente le radici in lavori precedenti. Lo dicono chiaramente. Ah, ecco. Tipo? Beh, citano per esempio DComp, il quadro europeo per le competenze digitali. Da lì hanno preso l'idea di categorizzare le competenze e la struttura, quella famosa KSA, no? Conoscenze, abilità, attitudini. Ah, ok. La struttura KSA viene da lì. Sì, l'hanno adattata all'IA. Poi dall'UNESCO prendono la visione globale e l'importanza di distinguere tra chi impara e chi insegna. Interessante. E altro? Menzionano anche il Digital Promise Framework per i modi di interagire con l'IA e AI for K-12, l'iniziativa americana per le grandi idee sull'IA, più sugli aspetti tecnici. Quindi sì, c'è un bel dialogo col passato. Ok, le fondamenta sono chiare. Si basa su lavori solidi. Ma allora, dov'è che si distingue? Cosa c'è di veramente originale, diciamo? Beh, un punto chiave è il focus su fondamenta durature. Cioè, che significa durature in un campo che, beh, cambia ogni 6 mesi? È proprio questo il punto. L'idea è concentrarsi sui principi, sulle capacità che restano valide indipendentemente dallo strumento specifico, dalla versione del software del momento. Capisco. Quindi non insegnare a usare l'ultima versione di un chatbot, ma... Ma a capire come funzionano in generale i modelli linguistici, quali sono i loro limiti, le implicazioni etiche, sociali. Un altro aspetto forte è la spinta all'integrazione interdisciplinare. Ah, quindi non solo informatica. No, affatto. Riguarda la storia, l'arte, la filosofia, l'etica. Deve attraversare le materie. E poi c'è un approccio molto pratico. Pratico in che senso? Servono laboratori super tecnologici. Non necessariamente. Propongono scenari, attività applicabili anche con risorse limitate. L'importante è il concetto, la riflessione. E l'etica? Spesso l'etica finisce per essere un po' un appendice, no? Qualcosa che si aggiunge alla fine. Qui com'è? Qui sembra diverso, sì. Non è un tema a sé, ma è proprio. Intrecciata nella struttura. Cioè, il framework ha quattro domini principali: interagire con l'IA, creare con l'IA, gestire l'IA e progettare l'IA. Ok. Dentro questi domini usano il modello KSA, conoscenze, abilità, attitudini, per definire 22 competenze specifiche. E l'etica le attraversa tutte. In che modo praticamente? Si collega la comprensione tecnica al contesto sociale, all'equità, ai bias nei dati, alle scelte umane che ci sono dietro, persino al costo ambientale. Non basta sapere come funziona, bisogna saper fare e saper essere. Essere cittadini digitali consapevoli, critici. Molto interessante questa tessitura. E siccome è una bozza, si rivolgono a un pubblico ampio, giusto? Insegnanti, dirigenti. Sì, insegnanti, dirigenti, decisori politici, chi progetta la didattica. Chiedono feedback. È un documento vivo. C'è anche quell'esempio carino di Sofia, la bambina di 10 anni che usa l'IA generativa per scrivere storie, ma con la guida della mamma. Esatto, illustra bene l'obiettivo. Un uso consapevole, critico. La tecnologia come strumento, non come sostituto. Ok. Quindi, se dovessimo tirare le somme, il contributo unico di questo quadro qual è? Direi che sta nel fornire una guida che vuole essere pratica, etica, interdisciplinare e, come dicevamo, pensata per durare. Costruita sul passato, ma con elementi distintivi. Proprio così. Si distingue per come organizza i concetti e per questa forte integrazione dell'etica e dell'applicazione pratica. Cerca di far capire come funziona l'IA, che era il tema 1 della loro ricerca, e quali competenze umane servono per usarla bene, il tema 2. Perfetto. E allora, per chiudere, lasciamo chi ci ascolta con uno spunto che viene proprio da qui, dal framework stesso, in particolare dalla conoscenza K2.1. Quale sarebbe? Dice che i sistemi di IA riflettono scelte umane, dati umani, lavoro umano. Ecco, se iniziassimo davvero a vederla così, non come una scatola nera, magica e autonoma, ma come risultato di scelte di progettazione e lavoro. Interessante. Cambierebbe il modo in cui interagiamo ogni giorno con questi strumenti. Forse sì, forse con più consapevolezza e magari anche con un po' meno. Timore reverenziale, che dici? È un'ottima riflessione finale. Cambierebbe molto, credo.